Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Giro del mondo in 4 giorni. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Oggi nel primo dei nostri approfondimenti scopriremo le ultime tendenze in fatto di viaggi e vacanze. Siamo andati a curiosare in anteprima fra le mete in vetrina alla BIT, la borsa internazionale del turismo. Decine di chiusure di punti vendita e scaffali tutti uguali. Il supermercato è in crisi? È l'interrogativo al centro dello spazio dedicato alla grande distribuzione. Focus sui trend, dedicato infine ai consumi, denuncia quando i consumi aprono gli occhi. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. Diffusa da anni negli Stati Uniti, prende piede anche in Italia la Doggy Bag. Il sacchetto che non serve, come dice il nome, a portare il cibo al proprio cane, serve invece a portare a casa dal ristorante gli avanzi di cibo e bevande. Sono per ora una ventina i ristoranti di Milano e provincia che hanno aderito all'iniziativa Il Buono che Avanza, per sensibilizzare i consumatori sugli sprechi alimentari. Videogiochi alle fermate dell'autobus. L'idea è della città di San Francisco, che in collaborazione con Yahoo ha posizionato schermi touchscreen alle fermate nei punti più strategici. Gli schermi sono tutti connessi tra loro e permettono di sfidare i passeggeri in attesa alle altre fermate in una sorta di maxi partita tra quartieri. Mentre gli innamorati giapponesi si preparano a celebrare San Valentino, evento clou in tutto il paese, nella città di Osaka si è fatto notare un tabellone pubblicitario da Guinness. Una maxi tavoletta di cioccolato, larga 166 metri e alta 28, firmata dal colosso nipponico dei dolciumi Meiji. La superficie è pari a 380.000 tavolette. Sorgerà a Selva di Val Gardena, nel cuore dell'Alto Adige, il primo hotel super lusso, 7 stelle, delle Alpi. Progettato dall'archistar Norman Foster, costo 50 milioni di euro, la struttura ad Alveare, proprio sulla pista mondiale Suslong, prevede suite da 300 metri quadri, un lago salato sul tetto e un conto finale da 5.500 euro a notte. Ha già superato i 4 milioni di click su YouTube il nuovo spot Chrysler voluto da Sergio Marchionne, trasmesso durante il Super Bowl. Costato 9 milioni di dollari, girato a Detroit, ha per protagonista il rapper Eminem. Tra i preferiti dell'evento sportivo che ogni anno catalizza i pubblicitari di tutto il mondo, c'è lo spot Volkswagen Star Wars. Nasce il primo catalogo per i viaggi a piedi. Firmato Viaggi Solidali, propone 40 itinerari in Italia e nel Mediterraneo. La borsa della spesa. Sei uno che fa sui trampoli. Sui trampoli? Sei un trampoliere. È così che si chiamano quelli che viaggiano a piedi. Figliolo, da quant'è che sei qua su? Da un paio di settimane. E prima di allora? Sono andato nel Sud Dakota, ho lavorato per un certo Wayne. Che te ne pare di tutto questo? Mi piace tutto questo. Poi ho disceso il fiume Colorado, giù per il Grand Canyon. Ho fatto le rapide. La N lì per cosa sta? Nord. La tua grande avventura in Alaska. Possano i viaggiatori trovare la felicità ovunque vadano. E senza sforzo possano realizzare ciò che si sono prefissi. Nel paese in cui sto viaggiando, il Tibet, credono che percorrere a piedi lunghe distanze verso i luoghi sacri purifichi le cattive azioni commesse. Credono che più il viaggio è difficile, più la purificazione è profonda. L'anno scorso ho passato 322 giorni in viaggio. Ho volato per 350.000 miglia. La luna ne dista 250.000. Le cose che tutti odiano del viaggiare per me sono confortanti reminiscenze che sono a casa. Bentornato, signor Bingham. Erano Into the Wild, 7 anni in Tibet, tra le nuvole. Noi ne abbiamo scelti solo 3, ma sono molti i film che raccontano storie di viaggio, storie di formazione e di conoscenza che ispirano molte delle nostre partenze. Quali sono le nuove tendenze del settore? Quali le mete e le tipologie di viaggio che appassionano i 642 milioni di turisti? Tanti, pensate, sono stati gli arrivi registrati nel 2010 in tutto il mondo. è quello che ogni anno mette in vetrina la BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, giunta quest'anno alla 31esima edizione, in programma nei prossimi giorni a Milano dal 17 al 20 febbraio. Un vero e proprio giro del mondo attraverso 140 paesi con conferme e new entries. Crescono come mete di viaggio Medio Oriente e Africa, i parchi naturali in particolare, più contenuto invece l'aumento dell'Europa. E poi ci sono gli outsider, che ci svela Marco Serioli, direttore esecutivo di Rassegne, la società di Fiera Milano che organizza la BIT. Ci sono alcune mete, ce ne sono molte, molto interessanti, ce ne sono alcune particolarmente nuove. Una meta decisamente nuova per gli italiani è il Kazakistan, che è la prima volta che si presenta sul mercato. Un'altra novità importante arriva dall'Indonesia, che è un paese che, oltre a, come dire, una vasta scelta di mare, offre adesso anche la possibilità di organizzare trekking, di organizzare escursioni sulle pendici dei vulcani attivi, quindi qualcosa di veramente particolare. L'ultima importante novità credo che sia quella dell'Oman, che è una meta ancora poco conosciuta, dove ha la possibilità di fare jeep safari nel deserto rosso, si unisce anche la possibilità di fare snorkeling in mezzo ai coralli, quindi di fare una vacanza di mare. L'altra importante ritorno, diciamo così, un ritorno alla grande, è quello dell'India, che torna alla BIT ampliando la propria offerta, soprattutto sul fronte delle destinazioni che hanno a che fare con la montagna, con la catena dell'Himalaya. Nel 2010 il 30% degli italiani, dati dell'Osservatorio Nazionale del Turismo, ha scelto una meta fuori confine. Gli altri, in aumento del 12% circa, hanno scelto località di casa nostra, per lo più per viaggi brevi. Gli italiani nel 2010 hanno viaggiato di più, ma speso di meno. L'Italia è il quinto paese al mondo per numero di turisti internazionali, terzo in Europa solo alla Francia e alla Spagna. Com'è cambiato il turista in questi anni? Come ha condizionato le sue scelte la crisi? Lo abbiamo chiesto a Giovanni Bastianelli, coordinatore nazionale di Confturismo. La tendenza a fare più vacanze più brevi ormai era già presente da numerosi anni, anche in anni quando la crisi non c'era. Si preferisce staccare più volte durante l'anno e perciò non c'è più quella villeggiatura di 15 giorni, 20 giorni, un mese come c'era tanti anni fa. In realtà, diciamo, la crisi ha portato vacanze sì più brevi, ma soprattutto molta attenzione alla spesa, cercando di farla lo stesso la vacanza, ma trovando la maniera di spendere di meno. E diciamo che il mercato si è posizionato su questa esigenza, naturalmente. Diciamo che non c'è una formula che si possa dire né qual è l'offerta ideale turistica, né, diciamo, qual è il turista ideale. Diciamo che ormai vincono le destinazioni che riescono a dare più cose in una vacanza sola, dove il turista può trovare la bellezza paesaggistica, l'enogastronomia, la cultura, cioè un insieme di cose. Questo, diciamo, viene ricercato. E vi ricordiamo che Radio 24 sarà presente alla BIT. Ci troverete al padiglione 3, stand B49-C50. Ora cambiamo argomento, vendite in calo, saldo negativo tra chiusure e nuove aperture, è finito il boom dei supermercati, il direttore di Markup Luigi Rubinelli. Nel 2010 nel largo consumo sono successi alcuni fatti inimmaginabili. I dati Symphony IRI non la fanno tanto lunga. Da quando sono nati i supermercati, l'industria dell'alimentare ha dovuto registrare nel corso del 2010 una diminuzione delle vendite, a parità di metro quadro, quindi senza calcolare l'apporto delle nuove aperture, dello 0,5% del totale delle vendite del largo consumo. Nello stesso periodo sono stati chiusi 102 punti di vendita. Non è una debacle, ma è un segno di debolezza sicuramente. I motivi sono molti: sovrapposizione di più negozi nella stessa area, calo del reddito a disposizione dei consumatori, disaffezione ai canali della grande distribuzione per la poca trasparenza. Ma c'è un dato ulteriore, difficile da quantificare, perché il soggetto non è facilmente identificabile: il calo dell'innovazione. Le nuove referenze lanciate nello scorso anno o non sono prodotti innovativi to cure, oppure sono delle mere extension line, o addirittura sono la brutta copia di prodotti già esistenti. Perciò dei 10.000 e più codici EN introdotti nella grande distribuzione nel corso dell'anno, ne restano sullo scaffale in modo definitivo poche centinaia. I motivi anche qui sono molti: costi di referenziamento, lentezze nell'introduzione, scarsa pubblicità. Aggiungiamo anche che numerosi prodotti veramente innovativi giacciono nei cassetti dei brand manager e non vengono lanciati, soprattutto nelle grandi multinazionali, per paura di flop o di costi alti. Risultato finale: manca o è davvero fievole l'innovazione. C'è bisogno di innovazione in una rete di vendita ormai uguale da Aosta a Marsala? Sì, ed è urgente. Essere e avere. Nuovo in studio con Essere Avere, seconda parte, come sempre dedicata al focus sui trend. Diamo subito il benvenuto alla nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Lab, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Consumi denuncia, il tema di questa puntata. Tra pochissimo capirete anche il perché di questa intro musicale. A volte i consumi si pongono in modo critico per denunciare un fenomeno sul quale far riflettere. È una connotazione molto legata, ad esempio, all'ambiente, all'alimentazione e allo sfruttamento intensivo delle risorse, vedi energia e cibo. Ma lo stesso discorso si può fare per le situazioni di emarginazione sociale, come la diversità, la disabilità, il disagio psichico, oppure, e veniamo al tema di oggi, la vita dei senza tetto, dei clochard, che aveva ispirato Phil Collins per Another Day in Paradise, che sentiamo appunto in sottofondo. Una denuncia prima relegata al volontariato e all'impegno sociale, ora in evidenza anche nei consumi, dalla moda al design fino al cinema e alla TV. Patrizia. Il mondo ipermoderno delle merci, che tutto traduce e tutto usa, pesca anche dall'universo dei senza tetto per trarre ispirazione. Soprattutto la moda è solita attingere i suoi spunti più creativi dalla strada e lo fa imitando anche le persone più povere. Così paradossalmente i vagabondi vedono creazioni ispirate a loro di grandi marchi del fashion, che riducono ad apparenze e a mondi immaginari quello che è senz'altro un mondo denso di stimoli originali, ma anche una condizione limite del vivere, dunque altrettanto densa di temi critici, di istanze del contemporaneo, che potremmo anche considerare intoccabili dalla macchina dei consumi. Macchina dei consumi a cui va riconosciuto, d'altro canto, il ruolo di segnalatore, capace di mettere un accento su questo mondo, perché non sempre parlerei comunque di intenzionale denuncia. E arriva proprio dalla moda la storia di un barbone che diventa icona di stile. È il caso di Cheng Gurong, 34 anni, già ribattezzato in rete il Johnny Depp cinese, che dopo 5 anni di vita per le strade di Ningbo, una cittadina della Cina orientale dove lavorava e viveva, viene licenziato, perde la moglie e viene scoperto grazie agli scatti che un fotografo gli fa e mette su internet. Diventa così un trendsetter, citato dai fashion blog più influenti, ritorna a casa dove ritrova i figli e comincia la nuova professione di modello. Sul sito taobao.com, difficili da trovare perché il sito è in cinese, ma ci sono le magliette ispirate alla sua storia, è già uscito un libro sulla sua vita e sono iniziate anche a fine 2010 le riprese per un film sulla sua vita. Altra storia paradigmatica sul piano dell'emancipazione sociale, siamo a Milano, lui si chiama Giacomo, in realtà si chiama Giap, ha 38 anni ed è olandese, ma si fa chiamare così dal 2002, da quando vive e lavora a Milano. Risponde solo agli sms che gli fanno anche da agenda, lo si può chiamare quando si ha bisogno di riparare la propria bicicletta. Conta soprattutto sul passaparola, si trovano le recensioni sul suo operato, e ormai è diventato un famoso biciclettaio a Milano, sul sito giacobici.blogspot.com. L'esperienza homeless si presta anche ad essere un tema educativo. Dai corsi di formazione manageriale nel set dei corsi di sopravvivenza estremi proposti dal training outdoor ai videogiochi. Si chiama Spent, è il videogioco educativo realizzato da una non profit californiana e l'agenzia McKinney in partnership con la ONG Urban Ministries for Durham, che si occupa di ricovero e assistenza per gli homeless, appunto. Questo gioco mette il giocatore nei panni di un senza tetto. L'inizio è un evento tragico che spezza la routine della vita, come normalmente accade, e ci sbalza in una nuova condizione. Sono in grande aumento i giochi che associano all'attività videoludica obiettivi educativi legati alla presa di coscienza, appunto alla consapevolezza, in questo caso, che casa, lavoro, soldi non sono scontati. Spent è anche il primo videogioco che tratta il tema della miseria in un contesto, quello sociale occidentale, e quindi non nel cosiddetto terzo mondo. Dalla strada rappresentata o videogiocata alla strada vera. A Parigi sono ricomparse le famose tende rosse lungo la Senna, 100 ripari urbani che ogni anno da 4 anni vengono montate dall'associazione I Bambini di Don Chisciotte per sensibilizzare anche in questo caso i francesi sulla condizione dei senza tetto, che nella sola Parigi sono ancora 4.000. Nonostante il diritto alla casa sia stato equiparato al diritto all'istruzione e alla salute e vengano stanziati dal governo ogni anno più di 1 miliardo di euro. E uscirà proprio in Francia a marzo il film Hope City, la città della speranza, primo esperimento di scrittura e regia cinematografica elaborato da un gruppo di senza tetto. Un film denuncia che ha per protagonisti molti clochard di Marsiglia. Stesso tema, ma in una dimensione più surreale e grottesca, per L'esplosivo piano di Basile, diretto da Jean-Pierre Genet, il regista de Il favoloso mondo di Amélie, uscito a dicembre anche in Italia. Qualcuno ha una moneta? Testa. Va bene, non tocco niente. Io sono Basile. Lo so, hai un siluro nella boccia. Tu vieni con me. C'è una famiglia che ti adotterà. Allora, vi siete lavati tutti le mani? Sì, sì. Dunque, qui noi recuperiamo, smistiamo, ripariamo. Sì, oh, beh, sì. Patrizia, non solo cinema, lo dicevamo in apertura, anche TV. Certo, in America impazza la moda dei clochard di talento sulla scia della storia a lieto fine di Ted Williams, il senza tetto soprannominato Golden Voice per la sua incredibile voce. È nato il programma televisivo dedicato, si chiama America's Homeless Got Talent, il talent show sugli homeless, è ambientato per le strade di Hollywood ed ecco le diverse performance tanto gradite dal pubblico di cantanti, giocolieri, contorsionisti improvvisati che diventano celebrità per pochi minuti o per il resto della vita. All'immaginario dei clochard dei senza tetto, lo dicevamo in apertura, si rifà anche la nuova onda homeless chic nel mondo moda, che a voler essere sinceri nella moda italiana si è limitata a stracciare qualche jeans o a presentare in buste di plastica, che peraltro attualmente sono fuori legge, le ben più costose handbags firmate Missoni per la primavera 2011. Però è nato anche il marchio Maison Clochard, 4 giovani toscani che hanno scelto appunto un nome programmatico. Sono state soprattutto le case di moda straniere a sporcare le proprie proposte con dettagli volutamente trasandati. Lanvin presenta maglioni con le toppe consunti e veramente sdrucciti. Vivienne Westwood utilizza da sempre stracci e lembi di tessuto per i suoi abiti eccentrici, colorati e proprio per questo inconfondibili, e fa sfilare modelli stratificati e impellicciati che spingono carrelli della spesa. Ma sono i designer di Anversa, in particolare Walter van Berendonck, che hanno assunto spesso dei connotati stilistici molto ricchi di richiami alla povertà dello styling e a questo effetto sovrabbondante, vestendo capi su capi o presentando modelle accuratamente sciatte. E sono stati però i fashion designer giapponesi a intuire la vera ricchezza di significati nello stile clochard, grazie al loro linguaggio estetico post-atomico. Comme des Garçons e Yohei Yamamoto hanno reso con grande chiarezza e semplicità il rifiuto di agghindare a festa i propri modelli. Anche la moda per la casa in qualche caso sensibilizza al tema senza casa. Il marchio americano Snork ha lanciato un set di lenzuola, si chiamano Le Clochard et Le Trottoir, quindi il senza tetto e il marciapiede, e infatti il lenzuolo sopra ha un pattern cartonato che richiama appunto la modalità notturna dei senza tetto, e il sotto riproduce un marciapiede con tanto di tombino. Un prodotto volutamente di denuncia sulla condizione, soprattutto notturna, che è quella più a rischio per i senza tetto che vivono ai margini delle nostre metropoli, così come dichiarato dagli stilisti del marchio. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Londra, su Clochard e dintorni? Questo è il momento della nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Ciao Alessia. Buon pomeriggio a tutti. Chi può dire di conoscere meglio una città di chi ha abitato o abita le sue strade? Il Socmobs Unseen Tours offre una prospettiva del tutto inedita a chi vuole esplorare la città e carpirne il vero spirito, perché a fare da guide ci sono i senza tetto. L'idea nasce da un'affiliazione dell'associazione di volontari Socmob, che da tempo, con la scusa rompighiaccio di regalare calzini agli homeless, socks appunto, instaura un dialogo emancipativo con queste persone. I tour, ce ne sono 4 versioni, integrano le visite ai luoghi storici per i quali gli homeless sono stati appositamente formati con le loro personali storie ed esperienze, per dare ai partecipanti, oltre che a una visione della città attraverso gli occhi di chi vive senza casa, anche una maggiore consapevolezza sociale di questo problema. Per i senza tetto è un'occasione per partecipare attivamente alla vita sociale e culturale della propria città e riprendere così in mano la propria vita. L'incasso va per la quota maggiore infatti proprio ai senza tetto, il resto viene reinvestito nell'impresa con l'intento di dare la possibilità agli homeless in un futuro prossimo di diventare imprenditori di se stessi ed eventualmente esportare il modello in altre città. Modello che funziona, visto che lo scorso anno l'Unseen Tours si è classificato all'ottavo posto della classifica dei Best Travel Business. Grazie Alessia, questo è il nostro suggerimento per chi ha in programma un weekend a Londra. Patrizia, tiriamo le somme di questa puntata con una sottolineatura, casomai ce ne fosse bisogno. Non abbiamo voluto lanciare lo stile Clochard. Abbiamo raccolto dal mondo dei servizi e dei consumi i segnali su una visione del mondo diversa, una visione che passa anche attraverso la presa di coscienza di esistenze al limite, le vite degli invisibili ai confini delle nostre città. Sì, certo, al di là della cronaca, in questa nostra sede, parlando di tendenze, fenomeni sociali intrecciati ai consumi, abbiamo voluto raccontare qualche storia a lieto fine, qualche storia di riscossa o di leggera emancipazione sociale dalla condizione drammatica dei senza tetto che rimane tale. E abbiamo anche voluto sottolineare il ruolo di richiamo attenzionale su questo fenomeno che può avere il mondo dei consumi, anche culturali, anche il mondo della rete, attraverso la messa in scena di quel che dei senza tetto vediamo e sappiamo. Essere avere @radio24.it, aspettiamo le vostre idee, i vostri suggerimenti, le vostre critiche anche, ovviamente, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima alle 16. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.